tramonti, ai aquiloni, addio quegli occhi che non ho più, addio i miei sogni, addio gli amici, addio gioventù, addio sorrisi, ai volti acerbi, le gote rosse che bruciano, addio quei mari di onde felici, addio gioventù che spendi tutti i tuoi giorni e non bastano a farti capire che non sei diverso e tutti quei giorni non tornano, addio anche a voi, addio quei prati che fioriranno, addio le sere che sbattono sopra le porte e le serrande, addio insonni dei, addio per sempre alla vita che ora finge di guardare verso me, ma illusa lo sguardo mio non avrai mai più, addio verità che splendi nell'orizzonte, corrono le tue gambe forti, già tu sei accanto quando i rimpianti ti accecano, addio anche a te che aspetti sopra un ponte sotto l'acqua ancora buona, ma tu senti che più scorre già in meno pulita, chi non salta presso resta fuori dalle gioie.